Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Diversi, solo che i giocatori, quelli come Bagnani, come Bianelli, come anche Hackett, sono a livello altissimo, Gallinari sono a livello altissimo, Spagna e cose, allora il nazionale sarà più o meno uguale con il nazionale americano. La Lega sono diversi perché abbiamo i migliori giocatori in Europa, in America, i migliori americani, allora quella Lega, l'NBA è molto più alta. Parola di Mike D'Antoni, che così mette a confronto NBA ed Europa, le due facce del pianeta basket. Grande allenatore nei due continenti, ma ancor prima straordinario playmaker della Milano vincitutto degli anni Ottanta, Mike D'Antoni è entrato ufficialmente nella leggenda dell'Olimpia, ora che la sua celebre maglietta numero 8 è stata ritirata dal club milanese. E allora anche Olimpia vuole oggi rendergli omaggio, e tra tanti scudetti, coppe e trofei conquistati vogliamo oggi rivivere una disfatta che portò poi però a una rimonta esaltante che aprì alla Milano di D'Antoni, ma anche di Meneghin, McAdoo, allenata da coach Peterson, la strada verso la Coppa dei Campioni 1986-87. Ακόμα 50 δευτερόλεπτα. Μετά μια επίθεση Τρέισερ και κι άλλη επίθεση ο Άρης. Δαντώνη για τον Μάκαντου. 92-65. Ακόμα 3 λεπτά. È il 31 ottobre 1986. Nella bolgia del Palazzo dello Sport di Salonicco, Milano subisce la peggior sconfitta della sua storia in Europa. L'Aris dei Dioscuri, Galis e Yannakis, che di lì a pochi mesi saranno campioni d'Europa con la Grecia, travolge l'Olimpia di D'Antoni, Meneghin, Premier, del grande americano Bob McAdoo e del giovane Barlow, con un terrificante 98-67. Un meno 31 che per i milanesi sa di addio anticipato alla Coppa Campioni e alla qualificazione al decisivo girone finale. Dino Meneghin, monumento del nostro basket e di quella Milano, ricorda così oggi quello storico KO. Non avevamo valutato bene forse la forza di Galis, di Yannakis, ma soprattutto di Galis, che era un giocatore che io non ho mai visto giocare, ma che ci aveva fatto neri in pratica. Lui è stato veramente un grandissimo giocatore, ma soprattutto in quella partita l'ha fatto il diavolo a quattro. Poi l'ambiente sicuramente infuocato di Salonicco non ha agevolato, non ha favorito la nostra prestazione, però in pratica loro ci hanno annichilito. Το παιχνίδι τελειώνει. 98-67, 31 punti di διαφορά. Il ritorno si gioca il 6 novembre 1986 al Pala Trussardi di Milano. L'impresa di rimontare quei 31 punti appare disperata, ma se c'è una squadra al mondo che può tentarla, beh, è proprio Milano, con quei campioni, quell'allenatore, quel playmaker. Ancora Meneghin. Mike è sempre stato, diciamo, l'allenatore in campo. Peterson dettava gli schemi e Mike molte volte ne faceva altri perché aveva il polso della situazione, del gioco in mano, e Peterson non diceva niente. Infatti Mike era proprio il braccio lungo di Peterson in campo. E Mike quella partita, come quella settimana, come tutti gli altri, l'avevamo affrontata con una grinta pazzesca in allenamento, cioè ogni allenamento sembrava una finale di Coppa Europa. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, nella squadra cresce la consapevolezza che l'impresa è possibile. Franco Casalini allora era il vice di Dan Peterson sulla panchina milanese. Il segreto di quella squadra lì era che ognuno sapeva qual era il suo ruolo, e quindi noi sapevamo che il nostro ruolo era quello di dare consigli, soprattutto ai giocatori di tal fatta, senza però volere entrare nel merito del loro mestiere, che era quello di essere grandi giocatori, e il loro mestiere era quello di ascoltare i consigli, magari anche non seguirli ogni tanto, ma comunque farne saggio uso secondo le proprie possibilità, eccetera, e quindi il tutto portava, diciamo così, al miglior risultato possibile. Non c'era nessuna prevaricazione, nessun infingimento, eravamo semplicemente immersi ciascuno nella propria professione, nel proprio ruolo. Tecnici e giocatori hanno un piano ben chiaro in mente, come spiega Meneghin. La cosa principale era la concentrazione mentale, diciamo la mentalità di non essere presi dalla frenesia, ecco, affrontare la partita come se fosse chiaramente una finale, ma senza senza il voler strafare, senza diventare ognuno di noi veramente il salvatore della patria. Quindi il gioco di squadra ancora lì, prima di tutto in difesa e poi in attacco, è stato veramente fondamentale. Infatti li abbiamo tenuti sotto i 50 punti, e questo vuol dire tantissimo per quanto riguarda il risultato finale. Hanno chiesto molta attenzione sulla rimessa. Yes. Peterson e Casalini, ha detto spintare, andare incontro, uscire dal blocco. Pallone dopo pallone, canestro dopo canestro, il prodigio riesce. La difesa dell'Olimpia soffoca Gallis, spegne l'estro di Giannakis e il tiro mortifero di Subotic. Il resto lo fanno i 10.000 del Palatrussardi, che restituiscono con gli interessi ai greci la pressione subita all'andata. Tu esci per prenderla come prendi, finta di dalla mai. Gli ultimi secondi della gara, che avrebbero dovuto sancire l'eliminazione di Milano, si trasformano in un trionfo. 83-49, più 34 con Premier autore di 20 punti e Gallis, che all'andata ne aveva fatti 44, tenuto ad appena 16. Dino Meneghin. Anche quando mancavano 5, 6 minuti, 3 minuti, eccetera, eravamo sempre indietro, cioè diciamo rispetto alla differenza canestri, diciamo, ma come abbiamo fatto a recuperare proprio quasi alla fine, arrivare a superare. Mi sembrava ancora incredibile anche a distanza di tempo riguardando la partita. L'immagine sicuramente è quella dell'invasione pacifica dei nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita e hanno invaso il campo come se avessimo vinto lo scudetto. C'è un entusiasmo pazzesco che sarà nel mio cuore, nella mia mente per sempre, perché lì eravamo un corpo unico, non c'eravamo solo noi in campo a giocare. Eravamo tutti 9.000, 8.000, 10.000 quanti fossero, che secondo me hanno venduto più biglietti dei posti disponibili. Ancora un po' erano attaccati alle tende a guardare le partite. Ecco D'Antoni che gira in palleggio, gira la palla come ha fatto mille volte, gira la palla e c'è fallo finalmente, tutto il pubblico in piedi, tutti applaudono, le mani levate a questa grande squadra. E ancora una volta, nel momento che sembrava drammatico per la sua vita, è riuscita a conquistare una qualificazione che sembrava dover essere impossibile, ma potrà essere, si qualifica per il girone finale di Coppa Europa. Ancora oggi, malgrado i tanti trionfi vissuti insieme, quando Mike e Dino fanno due chiacchiere, è quella l'impresa che ricordano più volentieri. Come ci ricorda proprio Meneghin con la consueta ironia. Se ci si ripensa o quando è capito di parlare, questa resta in assoluto il ricordo più fulgido e più bello. Proprio la partita contro Asis resta una, come diceva un comico, una pietra emiliana della nostra storia. Ora, oltre agli albi d'oro, ci sarà anche quella maglietta numero 8, sottolinea Franco Casalini, a celebrare per sempre quella storica rimonta. Sì, sì, una grandissima cosa, e probabilmente nessuno più di lui, anzi come lui, anche la maglia numero 18 di Arturo Kenney è stata ritirata a suo tempo. Però siccome di quel gruppo lì l'unico che c'era dal primo all'ultimo anno è stato Mike D'Antoni, non c'è alcun dubbio che nessuno più di lui la può meritare, anche se credo che nel futuro ne vedremo ritirate altre di quel gruppo lì. Abbiamo rivissuto le emozioni di quell'incredibile doppia sfida tra l'Olimpia Milano e l'Aris Salonicco, con la straordinaria rimonta di D'Antoni e compagni che poi conquistarono la Coppa dei Campioni. Ma c'è ora da svelare un mistero, un segreto relativo all'italianità di Mike D'Antoni, che poi nella parte finale della carriera, lo ricordiamo, vestì anche la maglia della nostra nazionale. E allora, nostro ospite è Lorenzo Sani, amico e collega del Quotidiano Nazionale, autore di Vale Tutto, le storie segrete della pallacanestro italiana, Italica Edizioni. Benvenuto a Olimpia, Lorenzo, la città dello sport. Grazie dell'invito, innanzitutto. Allora, Lorenzo, chiare origini italiane quelle di Mike D'Antoni, giusto? Mike D'Antoni è figlio e pronipote di un nostro emigrante umbro. All'epoca, quando viene in Italia come giocatore, e viene visionato da Milano in un gran segreto, perché viene organizzata al cospetto del mitico Bogoncelli, patron fondatore dell'Olimpia, un'amichevole con la federale, perché evidentemente gli svizzeri erano bravi a tenere ogni genere di segreto, non soltanto quelli bancari ma anche quelli, diciamo, tecnici. E subito D'Antoni impressiona tantissimo il patron del club milanese, e Bogoncelli disse: io voglio assolutamente quel giocatore. D'Antoni in pratica firmò per Milano la sera stessa e ritornò all'inizio della stagione successiva. Ed è a questo punto che in questa storia spunta un orologio, vero? Direi di una gran marca e anche d'oro. perché questi transfer, questi documenti che servivano per la naturalizzazione, quindi per confermare quindi lo status di cittadino italiano, che andavano recuperati negli Stati Uniti e inviati in seguito all'anagrafe di Milano, non arrivavano mai. Allora, per cercare di accelerare un po' i tempi e soprattutto avere la certezza del flusso di documentazione da Washington a Milano, su invito di Borgoncelli, Cappellari si recò nella gioielleria della capitale e acquistò un orologio molto prezioso e lo lasciò al funzionario, non so se al console, ambasciatore dell'epoca, che miracolosamente sbloccò questa pratica. D'Antoni, italiano a tutti gli effetti dunque, che quindi a 27 anni è ancora nei limiti d'età per svolgere il servizio militare. Una formalità, ma Mike, da convinto pacifista, non ci pensa nemmeno a vestire la divisa, vero? Mentre le pressioni dei militari aumentano. A risolvere tutto ci pensa allora un personaggio davvero particolare, giusto Lorenzo? Certo, entra in scena il mitico Benito Piccone. Benito Piccone, oltre ad essere factotum della società, grandissimo amante della pallacanestro, socialista storico e dipendente lavorava al comune di Milano, riceve materialmente il fax dall'ambasciata di Washington, o meglio si fa trovare pronto al telecopier, si chiamava così all'epoca, e riceve tutta la documentazione, la imbosca nel proprio cassetto, perché se il colonnello Picchiottini dell'aeronautica militare, che aveva la responsabilità della squadra di pallacanestro nazionale, aveva già fatto richiesta a Cappellari all'Olimpia di avere Mike D'Antoni, serviva però la documentazione ovviamente. Questa documentazione non arrivò mai nell'ufficio del colonnello Picchiottini, perché Benito Piccone la imboscò a suo rischio e pericolo nel cassetto del suo ufficio, all'insaputa di Mike D'Antoni, che continuava a allenarsi, a giocare tranquillamente, non sapeva del terremoto che si veniva ordito alle sue spalle. E allora Lorenzo Sani, grazie davvero per averci rivelato tutti i segreti del Mike D'Antoni italiano e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, grazie mille. Ora ci prendiamo una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Virtuosismi intorno a un tavolo da ping pong, quelli che sentite in sottofondo. In tanti lo pratichiamo, il tennis tavolo, e in pochi sanno che ci fu un tempo, e anche recente d'altra parte, in cui quella piccola pallina fece muovere la grande palla, cioè il mondo, secondo un modo di dire tipicamente americano. Sì, perché fu proprio intorno a un tavolo da ping pong che Stati Uniti e Cina cominciarono a parlarsi, in uno scenario politico-sportivo in cui anche l'Italia dei pongisti giocò la sua parte. Tra poco vi racconteremo questa storia, intanto però presentiamo il nostro ospite. Njagol Stojanov, classe 1987, 4 titoli italiani e uno scudetto di tennis tavolo vinto finora in carriera. Grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per la telefonata. Njagol, chiariamo subito, nato a Sofia in Bulgaria ma è italianissimo, vero? Giusto, giusto, sono molto più straniero in Bulgaria che in Italia, sono cresciuto a Livorno, ho frequentato tutte le scuole a Livorno, quindi sono italianissimo. Altra curiosità. Sei figlio di due pongisti. Beh, diciamo che ci sono dei lati positivi e dei lati negativi, però diciamo che fare uno sport che entrambi i tuoi genitori hanno praticato ad alto livello e di cui conoscono molti segreti aiuta. Come hai scoperto il ping pong? Beh, come tutti i ragazzi italiani ho giocato a calcio, quindi ho praticato entrambi gli sport fino alla scuola superiore. Poi naturalmente nel tennis tavolo i risultati erano migliori e quindi ho continuato su questa strada. Il divertimento è la cosa principale e adesso il sogno di un'Olimpiade mi porta a svolgere questa attività più come un lavoro, però il divertimento è comunque primario. Non tutti sanno che fu Mao Zedong negli anni 50 a fare del tennis tavolo lo sport nazionale cinese. Nasce da lì un'egemonia che dura ancora oggi, vero Njagol? La Cina è predominante nel nostro sport. Riesce da diversi anni ormai a battere tutta la concorrenza, che sia Asia o Europa, che sono due continenti comunque migliori, in ogni caso la Cina è nettamente superiore a tutti gli altri. E allora, Niago Stoyanov, ricordiamo insieme i giorni in cui proprio la Cina e gli Stati Uniti iniziarono a dialogare grazie a quella che è passata alla storia come la diplomazia del ping pong. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Chou En-lai, on behalf of the government of the People's Republic of China. Così Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti, annuncia il suo imminente viaggio in Cina nel febbraio del 1972. Una visita storica che segnava il disgelo nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi e che era stata anticipata e preparata proprio intorno a un tavolo di ping pong. Il 6 aprile del 1971 la squadra di ping pong americana, che disputava in Giappone il 31esimo campionato mondiale, ricevette un invito dalla squadra della Repubblica Popolare Cinese a visitare la Cina. Invito a sorpresa che ancora oggi gli storici dello sport attribuiscono a diverse ragioni. La più probabile sembra il casuale incontro tra la stella americana Glenn Cowan e il giocatore cinese Zhuang Zedong. Fatto sta che il 10 aprile del 1971 la squadra e i giornalisti al seguito divennero i primi americani a mettere piede nella capitale della Cina popolare da quando il partito comunista di Mao Zedong aveva preso il potere 22 anni prima, nel 1949. Un momento storico che i media mondiali e soprattutto statunitensi celebrarono con grande eco. China's Premier Zhou En-lai declared today that a new page is opening in relations between the United States and China. La strada per la storica visita di Nixon a Pechino era ormai aperta. Ma nel complesso equilibrio sportivo diplomatico di quei giorni anche l'Italia del ping pong giocò un ruolo non secondario, come ci ricorda Silvio Magni, allora commissario tecnico della nazionale azzurra di tennis tavolo. I cinesi con la famosa rivoluzione culturale di Mao erano usciti dallo sport ufficiale. Nel 71, alla fine di questi campionati del mondo del Giappone di Nagoya, invitarono la squadra americana in Cina. Gli americani ci andarono, fecero una serie di incontri, eccetera. Noi che stavamo iniziando le relazioni diplomatiche con la Cina, siamo subentrati per volere di Giulio Onesti, che sperava con la sua diplomazia di riuscire, e proprio perché noi avevamo iniziato le relazioni diplomatiche con la Cina, sperava con la sua diplomazia di farli rientrare nel movimento olimpico, e quindi ci ha chiesto di invitarli. I cinesi ci hanno ricambiato l'invito, e quando noi siamo tornati là a giugno-luglio del 72, Giulio Onesti venne con noi proprio per trattare il rientro della Cina al movimento olimpico, e ci riuscì, perché dopo qualche mese la Cina rientrò nel movimento olimpico. La rete tessuta dal presidente del CONI Onesti passa dunque anche per questo scambio di culture pongistiche così diverse. Magni ricorda l'arrivo dei campioni cinesi nel nostro paese. Sono venuti in ottobre-novembre, noi abbiamo fatto qui 4 incontri a Milano, a Torino, a Roma e a Cagliari, con un grande successo di pubblico. Era appena finito il 68, quindi c'era tutta quest'area nei confronti della Cina, no? La parte della gioventù, diciamo così, un po' rossa, un po', e quindi loro poi ci hanno ricambiato l'invito. Ancora più emozionante lo sbarco degli azzurri in Cina. Basti pensare che i match si disputarono in palazzetti con oltre 20.000 spettatori. Era paralizzante anche per me, perché io sono architetto e ho fatto il 68, quindi ecco, ero uno che diceva i confini scellerati cancelliamo dall'emisfero, no? Invece quando sono arrivato lì a 20.000 km di distanza, e quella sera, mi commuovo ancora adesso, mi scusi, hanno suonato l'inno nazionale, da quel giorno lì ho finito di dire i confini scellerati cancelliamo dall'emisfero. Sfide di ping pong, certo, ma quello in Cina agli inizi degli anni 70 era soprattutto un viaggio alla scoperta di un paese, di un continente in larga parte sconosciuto e misterioso, racconta Magni. Da Pechino ci hanno mandato in giro, ci hanno mandato in un posto dove non avevano mai visto un bianco, che era era Nanchang all'interno, dove era partita la lunga marcia per Di Mao e Chuang Tse-Tung e Chuen Lai per recuperare la Cina dai giapponesi, e lì non avevano mai visto un bianco. Era una cosa incredibile, perché ti toccavano, erano delle cose, e quindi sono state delle sensazioni incredibili, ed è un'esperienza effettivamente unica. Ma alla fine com'erano dal punto di vista tecnico questi fenomenali cinesi? Giocavano alla stragrande, giocavano bene, anche se per la verità non avevano mai avuto una grande, cioè i cinesi ancora adesso non hanno una grande tecnica, nel senso che i colpi nuovi del tennis tavolo, dovuti alle nuove coperture delle racchette, alla nuova tecnica eccetera, li inventano gli europei, loro li copiano. Quindi anche lì c'era per esempio il famoso top spin, che in Europa già andava alla stragrande, loro non ce l'avevano, anzi hanno chiesto a noi come si faceva a ribattere il top spin, perché loro non erano capaci. Quindi io sono stato all'Università dello Sport di Pechino a spiegare come bisognava fare. Ancora oggi il legame creato da quella sfida amichevole unisce la Cina e l'Italia del ping pong. Personalmente ricordo, per quanto riguarda invece la federazione, sono questi rapporti con la federazione cinese che sono sempre molto stretti, e tant'è che i nostri giocatori, anche i giovani, d'estate vanno in Cina a imparare, ad allenarsi eccetera. Noi siamo stati, diciamo così, fra le prime nazioni dell'Occidente ad avere rapporti diplomatici con la Cina. Nel campo del tennis tavolo siamo stati fra i primi ad andarci, e quindi abbiamo questo rapporto ancora oggi privilegiato con la Federazione Cinese di Tennis da Tavolo. Allora, Niagol Stoyanov, abbiamo rivissuto una pagina davvero speciale del nostro tennis tavolo. Oggi quali sono i rivali più agguerriti di voi azzurri? Beh, in Europa la Germania cerca di contrastare la Cina, però i numeri comunque sono diversi. In Asia invece in tutte le nazioni più o meno c'è tradizione, quindi diciamo che c'è un livello omogeneo. Si tratta comunque di parlare Cina e poi tutti gli altri. La Germania in Europa ha comunque un ruolo molto importante. So che punti alla qualificazione per le Olimpiadi di Rio 2016. Dai, svelaci qualche segreto. Niagol, stai preparando qualche colpo a sorpresa? Diciamo che sto lavorando sulla costanza. Non credo che ci siano colpi ad effetto. Si cerca di dare appunto continuità a tutti, agli allenamenti, alle gare, e cercare di limitare gli errori. Gli sbagli devono essere ridotti al minimo e cercare di arrivarci al meglio possibile. Diciamo che non c'è il colpo effetto, la sorpresa, si tratta di arrivarci il meglio possibile. Allora, Niagol Stoyanov, un grande in bocca al lupo e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, buon proseguimento. Ci tengo a fare gli auguri di buon compleanno, se così si può dire, alla federazione, che quest'anno compie 70 anni, e quindi speriamo che possa ancora migliorare il movimento pongistico. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito web radio24.it. Ancora una buona domenica da Dario Ricci.